Motivi di forza maggiore mi impediscono per una volta di rivolgermi a voi in diretta, per cui potrei anche sbagliarmi, ma sono abbastanza sicuro che al momento in cui mi ascolterete si sarà ormai spento l'interesse dei giornali e dei loro lettori per il caso della studentessa che ha dato alla luce un maschietto in quelli che, con una metafora che mi è sempre parsa un po' incongrua e vagamente ridicola, vengono definiti i bagni del liceo Parini, qui a Milano. Lei se l'è cavata, il bambino anche, le compagne hanno fatto una colletta per comprarle un passeggino, hanno appeso un fiocco azzurro sulla porta dell'aula, per fortuna, non su quella dei bagni. Uno dei candidati a sindaco, indovinate voi quale, ha reso noto di averle scritto per spiegarle che un bimbo è la cosa più bella che la vita può dare a una donna e confidarle già che c'era il proprio numero di cellulare, dimostrando, mi sembra, che pur di farsi pubblicità certa gente è capace delle azioni più invereconde, e la cronaca a questo punto non ha molto altro da registrare. Forse se la protagonista dell'episodio fosse stata una studentessa del rinomato liceo ginnasio di Brera, l'evento avrebbe suscitato qualche emozione in più, perché le vicende dei rampolli della milanesità bene toccano sempre il cuore dei nostri concittadini, ma la milanesità bene la ragazza in questione non appartiene. È figlia di immigrati sudamericani, vive, mi sembra d'aver capito, nell'Interland e frequenta a 19 anni il penultimo anno del Tenca, un ex istituto magistrale che nella sede del Parini è soltanto ospitato, per cui nel sentire comune è ovvio che i suoi casi interessino molto meno. Ed è anche vero, va detto tra di noi, che difficilmente una brutta avventura di questo tipo avrebbe potuto avere per protagonista una parignana, non perché quelle fanciulle in fiori non possano rimanere incinte e condividono, ahimè, con la maggioranza delle loro coetanee quella mancanza di equilibrio e di informazioni che può portare a un tale esito, ma perché quando gli capita di solito trovano sempre una sponda a cui appoggiarsi, qualcuno su cui fare affidamento. Non si trovano così disperatamente e drammaticamente soli. Perché quello che fa veramente rabbrividire in tutta questa storia è il pensiero di come quella povera ragazza ha vissuto il periodo della gestazione. 9 mesi, un'eternità per una 19enne. Senza chiedere né ricevere aiuto da nessuno, nella solitudine più totale, è una solitudine che è facile supporre piena di timori e di incertezze, di tentative di autoilludersi, di consapevolezze dolorosamente e inutilmente rimosse. Chissà quanta paura. Quanta paura e quanta angoscia, chiusa in un assurdo dramma privato e personalissimo, incapace per motivi che non conosciamo ma possiamo intuire fin troppo facilmente da uscire dal proprio silenzio, ha dovuto stringere i denti e tirare avanti fino alla fine, così come poteva. La cosa, forse, riempirà di esultanza quanti sulla pelle degli altri blaterano di diritto alla vita, ma non può certo essere considerata un'esperienza positiva per nessuno. È stata, per chiamarla col suo nome, una storia vergognosa. E non per chi l'ha vissuta, che non ha nessun motivo di vergognarsi, ma per chi attorno a lei non si è neanche accorto di quello che stava succedendo. Anche questo, a pensarci, è piuttosto terrificante. Che la ragazza aspettasse un bambino, dicono, non lo ha notato nessuno, né in famiglia né a scuola. E se in famiglia è ovvio che qualcosa non ha funzionato, è ovvio anche perché la famiglia in crisi di questo genere tutto sommato non funziona mai, quello che è successo a scuola è ai limiti dell'incredibile. Tanto è vero che chi dalla scuola ne ha riferito ha sentito l'istintivo bisogno di giustificarsi, di spiegare che era molto difficile se non impossibile notare qualcosa, perché la ragazza comunque aveva un carattere molto chiuso, e poi diciamolo, era di corporatura un po' forte, e come se non bastasse, nascondeva il suo stato con camicioni abbondanti e vestiti extra large, tutte scuse che appaiono a prima vista abbastanza penose. Fatto è che a scuola, con tutta evidenza, quella studentessa non la vedeva nessuno, non la guardavano neanche, come se fosse stata invisibile. Non perché fosse un'immigrata, per carità, era solo una studentessa tranquilla, non dava noia a nessuno, studiava con discreto profitto e subiva le interrogazioni senza lagnarsi, l'hanno chiamata alla cattedra anche un'ora prima del parto e non le è neanche saltato per la testa di dire no, per favore, sto male, e perché mai avrebbero dovuto guardarla. È da qualche anno, devo ammetterlo, che ho perso i contatti diretti con la scuola. So che i miei ex colleghi in cattedra sono parecchio affezionati da qualche tempo al tema della loro professionalità, intendendo per tale la specificità della propria funzione e, come a dire, suppongo la capacità di trasmettere ai giovani un corpus specifico di conoscenze. E può darsi che in questo tipo di competenze sia compresa la capacità di chiudere ermeticamente gli occhi su quanto esula da tale dimensione. Nessun insegnante, naturalmente, si spingerebbe fino a negare che sia necessario e opportuno un certo dialogo con gli studenti, che possono aver bisogno di un consiglio e di una guida anche al di fuori dell'ambito strettamente definito dai programmi. Ma è difficile sfuggire all'impressione che questa tematica oggi interessi molto meno di una volta. E comunque, anche il momento del dialogo, mi dicono, viene spesso professionalizzato, viene affidato a consulenti speciali, allo psicologo d'istituto se c'è, o allo sportello di ascolto, un'entità un po' vaga cui i giovani possono comunque rivolgersi nella certezza di avere il sostegno di cui abbisognano, salvaguardando al tempo stesso la propria privacy e quella dei loro insegnanti. Nello specifico non sembrerebbe proprio che nulla di tutto questo sia entrato in azione, ma forse è stato un caso particolarmente sfortunato. Presidi e professori vari, intervistati sulle pagine locali dei quotidiani nei due giorni due in cui la vicenda ha fatto notizia, non hanno mancato di insistere sulle difficoltà del proprio compito, sul fatto che l'istituzione scolastica sia sempre più spesso lasciata sola, sulla drammatica scarsità di risorse che l'affligge e costringe i dirigenti meglio intenzionati a fare a meno dei consulenti, chiudere gli sportelli e buonanotte a tutto quanto. Sarà indubbiamente vero. E d'altronde sapevamo già in quale pessime acque galleggi la scuola pubblica e visti anche gli attacchi che continuamente subisce opera dei suoi molti nemici, tra i quali, sarà un caso, gli ideologi del diritto alla vita sono in primissima fila. Tuttavia, io resto convinto che per non riuscire ad accorgersi che tra le creature che ti trovi di fronte dal lato opposto della cattedra, una è al nono mese di gravidanza, sia necessario uno sforzo davvero particolare. Una vocazione all'indifferenza che non si vede come possa permettere a chi ne è afflitto di insegnare che a chi che sia. Con amici di questo genere, come si dice, che bisogno si ha di nemici.